Pubblicata sulla rivista di poesia contemporanea, Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una poesia di Luca Giambonino dal titolo Sassolini. E quel che resta di quella nostra vacanza al mare sono i sassolini colorati che raccolsi lungo la riva, verdi, marroni, blu i più rari. Li tengo sulla mia scrivania, ricordando tempi più belli, spensierati ricordi di una tarda estate.